sa, sa. Senti queste, vedi se ti piace, bro. It's Maxwell on the beat. Ho già scritto un libro che forse non leggerà nessuno. Potessi ridimensionare il mondo per far sì che quel nessuno diventi qualcuno. E da tondo, frate, saremo tutti incubiti sopra un cubo. Sono la voce di quest'Italia marcia, dopo il cammino di Santiago in marcia per un'altra tappa. Stampagna in rosa, champagne e nastro. A nastro mi ti bevo sputando inchiostro. Quasi quasi scappo via, l'ho già pensato e fatto. E dopo ragioneria quasi quasi apro una sartoria per la gente come me che ha la stoffa. Una sartoria creativa, quindi per chi gioca, per chi bleffa. Su di te ho già scritto tanto, più di quanto realmente è stato apprezzato. Disonesto lo sono stato, manco ho chiesto scusa per gli errori. Dimmi chi ci ha mai azzeccato, chi mi ha mai ammazzato. About you ho già detto nella prima ammenda. Monello rammenta, chi ha orecchie per intendere intenda. Yes, bro, sa, sa. Se scrivere non basta, ci provo con la musica. Uomini da fare, di musa sempre una, l'unica. Madre rap, odio Giuda, un bacio per nessuno. E odio per il genere umano già dal 91. Se scrivere non basta, ci provo con la musica. Gli uomini da fare, di musa sempre una, l'unica. Madre rap, odio Giuda, un bacio per nessuno. E odio per il genere umano già dal 91. Stoppala. Sì, sì, sì, bra, bra, bra, bra. Viaggiamo così, ribelli, molesti e monelli. Non è un mistero che le donne dividono i fratelli. Poi vi ritrovo in chat, niente di personale. Inizia col genitale, manda foto imbarazzanti in conversazione personale. Bimbi, solo due quattine in printing. Seducente come bimbi, a tempo stesso rosso freestone. Perché siamo più intimi, se ti togli gli intimi. Perché in una serata impara ad apprezzare l'eco di un amico in silenzio. Un amico a pezzi, l'altro pazzo per pezzi. Magari mi chiamassi Mary, sarebbero tutti pazzi. Sì, di Ghetto Blasters e Walkman stereo. Se scrivere non basta, ci provo con la musica. Uomini da fare, di musa sempre una, l'unica. Madre rap, odio Giuda, un bacio per nessuno. E odio per il genere umano già dal 91. Se scrivere non basta, ci provo con la musica. Uomini da fare, di musa sempre una, l'unica. Madre rap, odio Giuda, un bacio per nessuno. E odio per il genere umano già dal 91. Stoppala.